Allora, Galli mi ha rubato quasi tutto il tempo, quindi cerco, sarò rapidissimo, vi darò alcuni spunti più che fare delle riflessioni articolate. Beh, innanzitutto le elezioni americane sono un'ottima occasione per chi vuole capire la politica. Per fare la politica bisogna semplificare molto. Per capire la politica invece bisogna cercare di articolare moltissimo l'analisi, capire i dati, studiarli, eccetera. Poi naturalmente per fare una politica semplificata bisognerebbe anche capire politica, questo è sempre più facoltativo però. Quindi un'elezione come quella americana è un'occasione d'oro per chi vuol capire, perché capire come hanno votato le forze sociali, i blocchi sociali. Noi abbiamo un quadro di un'America che tende ad essere divisa a metà. Se non ho capito male, il voto finale è 51-49, mi pare che ci sia un paio di milioni di distanza, 60 contro 58 fra Obama e Romney, che è un voto, non un grandissimo voto per un secondo mandato di un presidente, cioè tutti i presidenti che hanno vinto il secondo mandato. Da Nixon in poi, Nixon, Reagan, Clinton e Bush hanno avuto una grande vittoria la seconda volta, cioè sono passati dal circa il 51 al 56-57%. In questo caso invece abbiamo il contrario, cioè Obama passa dal 54, mi pare che aveva preso contro McCain, al 51, cioè restringe la sua forchetta, il che non è segno di inabilità, anzi, cioè vincere una situazione di difficoltà è un segno di abilità, non di errore, però mostra una difficoltà e mostra quello che anche dei commentatori poco simpatici come con Romney, come Vittorio Zucconi hanno detto: l'America è abbastanza divisa. C'era una vignetta molto divertente dell'Economist che diceva: le città votano Obama, le campagne votano Romney e la battaglia si gioca nei suburb, nelle periferie, che sono anche periferie di lusso come quella del New Jersey, della Florida, eccetera, ma sono anche periferie industriali. Riflettere come si. Ci sono tutte una serie di semplificazioni, consumatori verso produttori, moltitudini verso ceto medio, ceti intellettuali verso agricoltori, giovani verso pensionati. Ci sono tutto un dibattito, semplifica molto, però è una cosa da seguire per capire bene come vota la gente, per capire quali sono i trend. Bisogna stare attenti dal semplificare troppo i trend, le tendenze, eccetera, da scambiare, diciamo così, quella che appare una tendenza imbattibile per un dato di fatto. Adesso prevale l'idea, sì, che Obama ha vinto per poco, ma ha vinto fra gli ispanici e i giovani, cioè fra due forze che sono propulsive, mentre Romney ha vinto fra i pensionati e gli agricoltori, quindi quelli che vengono chiamati WASP, cioè i bianchi anglosassoni protestanti, quindi forse in ritirata, e quindi ci avviamo verso un secolo democratico. Bisogna ricordarsi che nel 2004 fu esattamente la stessa cosa che si prevedeva sui repubblicani, quando Bush ebbe quella clamorosa vittoria contro Kerry. Tutti si affrettarono a dire: ormai l'America è repubblicana, perché ha messo insieme, diciamo così, l'elettorato del sud con l'elettorato tradizionale del nord e ha costruito un blocco imbattibile. In realtà non era così imbattibile che poi ha perso non solo nel 2008, ma anche nel 2012. Le tendenze si modificano, il voto dei giovani è fondamentale perché è un voto dinamico, di prospettiva, significa che chi fa un'offerta politica dà una prospettiva, una visione, quindi è un voto da considerare molto nel suo carattere dinamico, però è un voto instabile, tutto farei tranne che fondare una forza politica sul voto giovanile, perché per sua natura cambia, innanzitutto i giovani diventano vecchi, diciamo così, come diceva come diceva Ionesco quando vedeva passare i cortei del 68 a Parigi, finirete tutti in notai, diceva. E anche il voto dei latinos, che è fondamentale e che è dovuto, diciamo così, a gravi errori fatti dai repubblicani sulla legge sull'immigrazione, anche da una grande abilità di Clinton, che è della scuola di Chicago, una delle più grandi scuole politiche americane. Anche i latinos però sono cattolici, e un dibattito sulla morale naturale, che è un dibattito che sta dividendo molto l'opinione pubblica, è un dibattito che può improvvisamente spostare fette di elettorato. La cosa da capire è che cosa succederà. Che cosa succederà? Noi avremo, diciamo, ancora un'istituzione bloccata. C'è stato un grande dibattito anche... No, la prima cosa da capire è perché ha vinto Obama. Perché la sua coalizione è una coalizione che, grazie soprattutto a Bill Clinton e al discorso che Bill Clinton ha fatto alla Convention Democratica, è riuscita a unire meglio i due segmenti dell'elettorato democratico. Il segmento progressista e il segmento centrista. Questa è, secondo me, l'analisi più convincente. La seconda analisi che spiega perché ha vinto Obama è che Obama era il leader della sua coalizione, era un volto, un uomo, una personalità che esprimeva un programma che era stato man mano corretto e aveva consentito di superare lo sbandamento che c'era stato nel primo grande dibattito fra Romney e Obama. La difficoltà di Romney è speculare ai caratteri della vittoria di Obama. Romney non è il leader del suo schieramento, è più Paul Ryan che lui, e non è riuscito perfettamente a saldare, diciamo così, le due anime del Partito Repubblicano, l'anima dei Tea Party e l'anima centrista legata al mondo dell'establishment. Secondo me un elemento di grande salute del sistema politico americano è che entrambi gli schieramenti non dividono la politica fra populisti e moderati, ma cercano di trovare una sintesi fra moderati e populisti, che è il modo fondamentale per includere tutte le correnti politiche, culturali e sociali dentro lo Stato e non indebolire lo Stato escludendo una parte di elettorato e di società. Il sistema americano, si è visto in questi mesi, sta vivendo una crisi anche istituzionale. C'è un grande dibattito all'interno degli Stati Uniti su come funziona il bilanciamento dei poteri fra Camera, Senato, cioè il Congresso, e Presidenza della Repubblica. Il diritto di veto del Parlamento e il diritto di legiferare del Parlamento corretto soltanto dal diritto di veto presidenziale appare in alcune occasioni un ostacolo alle decisioni, soprattutto in una fase così particolare di crisi. E alcune critiche vengono sollevate anche rispetto alle funzioni che ha la Corte Costituzionale, che secondo alcuni critici si sostituisce troppo al sistema decisionale Congresso-Presidenza. Alcuni analisti, fra cui uno che a me sembra uno dei più intelligenti osservatori delle cose americane, che è David Brooks, un osservatore di ispirazione conservatrice, ma che scrive sul New York Times, che vi invito a cercarvi su Google, sostiene che il punto veramente di debolezza del sistema americano è la crisi dell'establishment. E era l'establishment che aiutava, diciamo così, a temperare le contraddizioni all'interno del sistema istituzionale, favorendo una serie di sintesi politiche. Oltre a questo, lui parla anche di una debolezza della cultura politica. C'è un divertente articolo in cui lui dice che manca la craftsmanship, cioè la capacità artigianale di ricostruire le costruzioni all'interno del Congresso. Lui dice: su un singolo tema ci può essere una divisione di principi, ma sul 90% delle questioni che il congresso affronta, si possono trovare degli accordi, però per trovare gli accordi ci vogliono gli uomini politici capaci di costruirli. Lui diceva, un uomo molto radicale come Ted Kennedy, che è il vero inventore di Obama, è Ted Kennedy che inventa Obama contro Hillary Clinton perché non sopportava quei centristi democratici dell'Arizona, e però era anche uno dei più pragmatici senatori americani, quello più capace di fare gli accordi sulle cose, non di principio. Però diciamo il vero punto secondo me è, secondo una serie di osservatori americani, è proprio la difficoltà all'interno delle stabili, perché quando nelle stabili, voi poi siete tutti allievi credo del professor Sapelli e quindi delle sue grandi lezioni sulla poliarchia, un sistema diciamo così complesso e moderno, non ha solo un centro di decisione, ne ha diversi che devono sintonizzarsi, altrimenti va in crisi il sistema. È successo qualcosa negli anni 90 sotto la presidenza Clinton per cui c'è stata una separazione fra finanza e industria, con una funzione molto più dinamica data alla finanza per diversi motivi, anche per sostenere per esempio il processo di globalizzazione, per superare alcune crisi non solo economiche ma innanzitutto politiche. Un libro che vi invito a leggere, che è una specie di romanzo appassionante, è L'età della turbolenza di Alan Greenspan, che è pubblicato in Italia da Sperling & Kuffe, e qui lui, questo grande banchiere centrale, spiega quanto la politica c'entri nelle sue decisioni, quanto certe scelte vengono fatte. Lui parla nel 99, perché è evidente che i cinesi stanno passando bombe atomiche ai pakistani e ai coreani del nord, e quindi frenare quella cosa lì significa accelerare l'entrata, con Bonaparte e Tremonti, accelerare l'entrata della Cina nel sistema mondiale, altrimenti non si include e si crea un pericolo gravissimo per la pace mondiale. Questo accelera significa puntare sulla finanza, che è l'unica forma per accelerare il processo di globalizzazione. Altrettanto Greenspan lo spiega nel 2004, quando spiega che certe bolle finanziarie che lui ha combattuto, in certi casi invece lui le agevola perché deve far vincere la guerra agli americani in Iraq e deve trovare il modo perché la guerra non sconquassi l'economia, facendo perdere le elezioni a Bush, facendo perdere la guerra in Iraq. Il rapporto fra finanza e politica è molto importante e su cui si deve ragionare. Come si dice, paradossalmente il fatto che in quest'ultima campagna elettorale sia che la grande finanza che l'industria abbiano puntato su Romney può essere l'elemento che aiuta a ricostruire, diciamo così, uno spirito, la base economico-sociale per uno spirito bipartisan in alcune scelte fondamentali. Infatti i commenti di Obama sono abbastanza ottimisti in questo senso, e un presidente che non deve essere eletto ha molta più libertà per agire. Una seconda osservazione molto rapida che voglio fare è che negli Stati Uniti, se si leggono i libri più che i giornali, anche un po' i giornali, ma soprattutto i libri, il dibattito più che fra keynesiani e liberisti è un dibattito sulla Cina, se la Cina è o meno la Prussia del 2000. Io ho letto almeno 5 libri interessantissimi. Il primo è sulla Cina di Kissinger, che adesso è stato pubblicato anche in Italia, insieme a un dibattito, il XXI secolo sarà il secolo cinese, in cui intervengono Kissinger, Zaccaria, un docente cinese, si chiama Wei mi pare, e Niall Ferguson, questo storico che, inglese di origine ma che adesso insegna ad Harvard. Rivals di Bill Emmott, l'ex direttore dell'Economist, spiega, diciamo così, l'acutezza delle tensioni fra giapponesi, indiani e cinesi nel sistema Asia, e la sua convinzione che non sarà possibile evitare conflitti dentro questa cosa. Una cosa simile, con meno pessimismo, è spiegata da Robert Kaplan nel suo libro Monsoon, in cui spiega che la vera partita nel prossimo decennio, ventennio, sarà intorno all'Oceano Indiano, che è la via principale di approvvigionamento di risorse materiali dei cinesi, e il controllo dell'Oceano Indiano sarà quello che deciderà se lo sviluppo asiatico sarà o meno pacifico. Cose simili sostiene Ferguson anche in questo libro The West and the Rest, l'Ovest e il resto del mondo, dove racconta il passaggio di egemonia dall'Occidente al resto del mondo. Kissinger, che è uno degli interlocutori fondamentali di Pechino, pur avendo alcuni elementi di pessimismo e ricordando che nel 1913 tutti escludevano la guerra tranne uno storico inglese che diceva no, guardate che le tendenze sono quelle, dice che però forse è possibile evitarla, innanzitutto per la lezione stessa del 14-18, cioè per quanto i cinesi possono imparare, che sono gente che studia molto, diciamo così, dalla storia, dalle conseguenze di un conflitto. Secondo, perché l'orientamento di fondo del regime cinese è un orientamento storico-geografico, la loro ispirazione è il regno di mezzo, cioè una concezione della Cina, diciamo, autonoma dal resto del mondo, e che cerca un'armonia del resto del mondo perché crede che con questa armonia può crescere tranquillamente. Infine, secondo Kissinger, i problemi interni alla Cina saranno tali che le impediranno avventure esterne, anche se diversi storici, fra cui Ferguson e un giornalista come Zaccaria, dicono che di solito i problemi interni spingono la guerra più che evitarla. Infine Kissinger fa una valutazione molto intelligente dicendo che le guerre le fanno le nazioni giovani. Una nazione così vecchia come quella cinese, che con la politica di un figlio per famiglia perderà 200-300 milioni, mi pare, di abitanti nel giro di 30 anni, è una nazione che non avrà tanti spiriti aggressivi. Però questo nel dibattito americano, di cui soprattutto dei giovani che vogliono capire che cosa succederà dopo la crisi del 2008 e vogliono studiare queste cose, dovrebbero stare particolarmente attenti, e secondo me il principale problema americano, insieme a quello meno grave ma altrettanto significativo dell'Islam. Tenere conto del carattere militare del sistema cinese, credo che sia inutile spiegarlo ad allievi del professor Sapelli che insiste costantemente su questa cosa, però che la Cina sia un paese in cui l'elemento fondamentale è l'esercito di liberazione popolare è una cosa evidente, che non solo possiede circa metà, mi pare, dei mezzi di produzione del paese, non solo il segretario del partito diventa segretario del partito a pieno regime solo quando diventa anche responsabile della commissione militare del comitato centrale, cioè l'organo che decide sulle forze armate. Un mio vecchio amico Ginsberg, studiando, che ha studiato a lungo, è stato 8 anni a Pechino per l'unità eccetera, quindi ha potuto conoscere bene i meccanismi, mi ha spiegato come il sistema di potere del Politburo del Partito Comunista Cinese era fatto così: tutti i membri del Politburo erano stati commissari politici di una delle 7 armate dell'esercito di liberazione popolare, era l'aver guidato l'esercito, perché il commissario politico in un'organizzazione militare, diciamo, egemonia comunista, è quello che decide veramente. Sono quelli che hanno Chu Te, Lin Piao, Li Deng Xiaoping, erano tutti commissari delle diverse armate. Anche la politica delle risorse materiali cinesi, che è una politica molto interessante perché si basa non su aiuti generici ma su interventi nel luogo, costruiscono autostrade, costruiscono ferrovie, costruiscono fabbriche, cioè e mandano lì qualche centinaio di migliaia di cinesi fisicamente a costruire e insegnare a costruire le cose, quindi arricchiscono realmente i vari interventi, soprattutto nell'Asia, Bangladesh e Birmania, e in Africa, nell'Africa nera e nell'Africa costale man mano a risalire. C'è chi ha notato che questi interventi corrispondono molto spesso anche a un rafforzamento dei sistemi dittatoriali. I cinesi non si fanno, diciamo così, una questione prioritaria dei diritti umani e dei diritti civili, anzi è una cosa assolutamente subordinata. Se voi avete letto quel bellissimo libro che è Gomorra di Roberto Saviano, sarete naturalmente rimasti molto inorriditi dall'azione dei casalesi, però dovreste riflettere anche molto, diciamo così, sul controllo dei cinesi sul porto di Napoli. Sul porto di Napoli e come questo si intreccia a forme di utilizzo, diciamo così, di una delle tradizionali forme di organizzazione della società cinese, che sono le triadi. Un generale dei carabinieri con cui ho avuto un'intervista recentemente mi faceva notare che questo a Gioia Tauro è moltiplicato per 3 questo tipo di intervento. L'altra grande variabile su cui naturalmente il dibattito americano è molto interessato è quella islamica, capire come si governa la questione islamica. Ci sono una serie di date che spiegano che cos'è la nuova questione islamica nel mondo post-guerra fredda. La prima data è il 1979, quando Khomeini arriva a Teheran, mentre più o meno nello stesso periodo l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan. La possibilità che gli americani danno al regime degli Ayatollah di insediarsi in Iran è in parte dovuta anche a una scelta per indebolire strategicamente l'Unione Sovietica, per far passare da un mondo islamico che era diviso fra area di influenza comunista e area di influenza occidentale a una funzione più dinamica che scardina innanzitutto il sistema sovietico di controllo delle repubbliche asiatiche, che è un controllo che inizia fra il 21 e il 24, ma poi procede durante tutti gli anni 90. E l'uso, diciamo così, dell'Islam dell'Iran per mobilitare la guerra santa contro i sovietici ha una funzione fondamentale in Afghanistan. È quella cosa lì che fa la differenza e che consente di sconfiggere i sovietici sul campo e di aprire uno dei 3-4 elementi decisivi della crisi dell'Unione Sovietica. Nel contempo gli americani usano, come è noto, anche l'Iraq per cercare di limitare gli iraniani, armando Saddam Hussein fra l'85 e l'87, scatenando quella guerra che ha fatto 1 milione di morti fra iracheni e iraniani negli anni 70. Tutta questa cosa qui, con la successiva baldanza che Saddam Hussein acquisisce anche per i rapporti che ha avuto con gli Stati Uniti e con l'invasione successiva del Kuwait, spaventa in modo decisivo l'Arabia Saudita, e lo spavento dell'Arabia Saudita diventa finanziamento delle madrasse attraverso la setta religiosa, diciamo, fondamentale dei sauditi, che sono i wahhabiti, che si collegano ad altre sette fondamentaliste sunnite come i deodanditi, che sono nati in India, poi trasferiti in Pakistan e poi diventano, diciamo così, i papà dei talebani, e fa crescere, diciamo così, un'ondata di fondamentalismo islamico che è largamente finanziata dai sauditi, fino ad arrivare a quell'episodio drammatico che è il crollo delle Torri Gemelle, in cui su 23, mi pare, attentatori organizzati, diciamo così, negli Stati Uniti alle Torri Gemelle, ben 14 sono sauditi. E nei giorni più drammatici uno dei principi della casa saudita se ne scappa dagli Stati Uniti, non viene espulso perché gli Stati Uniti stanno molto attenti ai legami con Riyadh, se ne scappa perché viene accusato di aver finanziato una parte di questi terroristi. Se si considera queste cose, la guerra contro l'Iraq assume anche un significato geopolitico molto semplice, cioè quello di dare garanzie ai sauditi che non li si lascerà scoperti rispetto a uno delle due spine nel fianco che loro hanno. Una sono gli sciiti fondamentalisti Khomeini e gli altri sono i laicisti di tipo socialista come Hussein. Togliere Saddam Hussein, cosa che Bush padre non aveva voluto fare nel 1991, che aveva concluso, aveva liberato il Kuwait, ma si era fermato prima di entrare a Baghdad. Bush figlio la deve fare, insomma la vuole fare, la fa, perché ha il problema di separare sauditi da fondamentalismo iraniano, perché altrimenti, diciamo così, la questione islamica va fuori controllo. Che la questione islamica torna ad avere una sua drammaticità particolare quando l'Iran decide di armarsi con la bomba atomica. Anche qui diversi analisti americani vedono dei giochi strani, non soltanto e non tanto dei russi, ma dei cinesi. E anche qui l'allarme principale è dei sauditi, che non possono accettare di avere il loro principale rivale nel campo armato alla bomba atomica, che condizionerebbe tutto lo scenario. Da qui un avvicinamento fra sauditi e francesi, che saranno anche una piccola potenza, ma sono una potenza atomica, cosa che nel mondo, diciamo così, conta molto. E alcuni analisti più maligni dicono che alcune cause della primavera araba nascono proprio in uno stato fondamentale del sistema di relazioni francesi, che è la Tunisia, e nascono quando l'esercito tunisino ha in qualche modo un via libera a mollare il regime di Ben Ali. Chi gli dà il via libera? Sono aperte le interpretazioni. Ho citato questi casi, diciamo così, di politica estera anomala, perché questi fanno parte, diciamo così, di questa nostra stagione in cui non c'è ancora un equilibrio internazionale, non c'è un equilibrio internazionale dopo quello caduto con la guerra fredda, non c'è un equilibrio internazionale ed è finita una intera fase storica, quella dell'egemonia dell'Occidente, che incomincia fra Cristoforo Colombo, Vasco de Gama e l'assedio di Vienna. Colombo e da Gama aprono la via delle acque, l'assedio di guerra spezza la potenza territoriale dei turchi e si aprono il 700, l'800, il 900, che sono secoli del mondo marcati dagli europei o dalla nuova Europa americana. Sostituire l'equilibrio, diciamo, Unione Sovietica e Stati Uniti e mondo occidentale sono molto divisi, si combattono, ma sono tutti e due figli del 1789, sono liberali e marxisti, nascono dalla rivoluzione francese, insomma, liberali molto anche da quella inglese, che secondo molti osservatori è migliore di quella francese, ma comunque i diritti dell'uomo dell'89 danno un bel contributo anche ai liberali di marca inglese. Ricostruire un equilibrio, costruire una comunità di diritti richiede uno sforzo non soltanto politico ma anche morale e culturale, perché abbiamo a che fare con delle antropologie, quella confuciana e quella islamica, che hanno un difetto fondamentale, quello di subordinare la persona alla comunità religiosa e allo Stato. Quindi parlare di diritti con delle antropologie che escludono, diciamo, il principale diritto, eccetera, è una cosa complessa. Io suggerirei, pur non essendo un credente, suggerirei di leggere con molta attenzione le cose che scrive a questo proposito Ratzinger, sia nella sua lezione di Ratisbona, sia nel suo discorso al Bundesbank, dicendo che il problema di ricostruire una base per una morale naturale, che poi sia una base per i diritti comuni a livello della comunità internazionale, è un passaggio, è un tipo di battaglia culturale che l'Occidente deve fare in modo articolato e unitario. E qui naturalmente servirebbe molto l'Europa. qui naturalmente anch'io ho pochi minuti per dirlo, l'Europa mi sembra, diciamo così, una cosa non benissimo messa. Oggi ho letto Purini sul Corriere della Sera che dice che è un problema di incomprensione di alcuni italiani. Se si leggono le cose di Schmidt, di Joschka Fischer, di Tony Blair, che potete trovare sull'Europa su internet, vi renderete conto l'angoscia con cui i più intelligenti osservatori politici, innanzitutto di cultura socialista, la preoccupazione fondamentale un ruolo europeo, perché l'Europa è sempre cresciuta avendo non soltanto un assetto tecnocratico ma una visione politica. Nasce contro Stalin, nasce nel momento della crisi dell'Unione Sovietica, nasce per ricostruire l'unità tedesca, ha sempre, diciamo, un obiettivo politico, non soltanto un obiettivo tecnocratico. In questo senso la Merkel e Sarkozy avevano avuto un'intuizione quando sono eletti intorno al 2007, cioè quella del mercato interatlantico, cioè quello di rilanciare, alzare la posta. Ci vuole un mercato interatlantico, ci vuole una barra di oscillazione fra dollaro e marco per governare questo mercato interatlantico, ci vuole qualche regola in più sulla finanza, con buona pace del professor Galli, diciamo così. Ed erano una cosa molto ragionevole, però non trovano né in Bush junior né in Obama un ascoltatore attento su queste cose, e le ultime mosse sono mosse, diciamo, più ispirate a scelte di diciamo di emergenza che a scelte con una visione di prospettiva. Noi sappiamo dal grande irrazionalismo tedesco, da Hölderlin a Nietzsche, che dicono che i tedeschi hanno un'anima eroica e un'anima filistea. Il Novecento ci ha liberato dalla tentazione di usare l'anima eroica, dobbiamo, e preferiamo molto l'anima filistea tedesca, però quest'anima ha dei suoi limiti che vanno visti con molta attenzione. In questo senso servirebbe l'Italia. Ecco, io sono fra coloro che sostengono che l'Italia è in un impasse verticale, e secondo me non è un problema di uomini, non è neanche un problema economico, non è neanche un problema, come qualcuno dice, di una società ormai stanca, marcia, che non ha fatto la riforma protestante. Il principale problema italiano è la crisi verticale dello Stato. Noi abbiamo sempre avuto uno Stato dalle basi sociali troppo ristrette, dal 1861 in poi. L'unico che si propone di allargarle è Giolitti, ma viene sconfitto da una sorta di colpo di Stato nel 1915. Poi abbiamo avuto il fascismo, poi abbiamo avuto la Costituente, che è una grande carta ricca di valori, ma che costruisce, per le ristrettezze determinate dalla Guerra Fredda, più una Repubblica dei partiti che una Repubblica dei cittadini. E abbiamo una crisi dello Stato nel 92, quando le condizioni che rendevano possibile quel tipo di Stato finiscono, perché non c'è più la protezione determinata ai nostri mercati, alla nostra politica, dalla Guerra Fredda. Non aver cambiato lo Stato nel 92 ha prodotto lo stato di disgregazione, di sbandamento che noi stiamo vivendo, e che, diciamo così, un tecnico molto utile per fissare una tregua, per affrontare le emergenze, come Monti, non risolve. Però. Grazie.